Scusate il ritardo, ma era una cosa bellissima che vi voglio far vedere. Era un trekking urbano all'isola che prevedeva diverse tappe di tutta l'isola che non c'è più, tutti gli spazi sociali dell'isola dagli anni 70 ad adesso, passa da Pergola, dal Teatro Verdile, dalla Stecca degli Artigiani. Abbiamo girato tutto il pomeriggio in ogni posto. Noi abbiamo iniziato con la storia di Renudo, e poi c'erano quelli del Bulk che ha raccontato il Bulk e così via, fino a che si è arrivati in piazza Minniti. Tito Minniti, che era un aviatore della fascista che aveva bombardato e gasato centinaia di migliaia di eritrei nella guerra nelle colonie cosiddette italiane, l'Italia delle colonie ai tempi, e poi dopo il suo aereo finalmente caduto, i partigiani del posto l'hanno massacrato, gli hanno proprio mozzato la testa. Ebbene, è diventato medaglia d'oro e adesso Piazza Minniti, lì nel centro dell'isola, è dedicata a lui. Allora i compagni qui dell'isola hanno deciso di fare una ricerca e hanno trovato un altro Minniti, pittore, che è tutta una storia, amico, compagno, allievo di Caravaggio, una persona che aveva molto senso dell'umanità e della comunità. E quindi abbiamo cancellato Tito Minniti, aviatore, abbiamo messo Minniti, pittore. E quindi quella piazza adesso ricorderà una persona un pochino più decente. Un applauso davvero a questi ragazzi dell'isola che hanno fatto un lavoro bellissimo. Ma noi siamo qui a parlare d'altro, scusate. Allora, il libro in questione è questo. Tanto siete qua, avete fatto l'allenamento voi e tutto, vi conoscete benissimo. Comunque, Cuore, classe, fegato. Un libro a tre teste, 1, 2, 3. Lui, lo conoscete di già, ha fatto un libro, Fabio Pennetta, un applauso, ha fatto un libro di narrativa che si è inventato un personaggio, il Callo. Avete letto il libro precedente, lo sapete, qui in questo libro c'è un altro mini romanzo con il Callo come protagonista. Di Fabio io non ne parlo perché ormai è appunto il secondo libro, quindi ci siamo conosciuti ormai da 5 anni, è stato un bel lavoro, insomma, siamo diventati molto amici e piano piano abbiamo pensato, di fare un altro libro, un altro progetto editoriale, e in questo ci è venuto il grande Gabriele. Gabriele, che cioè, è una persona straordinaria, Gabriele, non ho parole per raccontare quanto ci siamo sentiti vicino a lui. È impossibile riuscire a un'empatia, a una capacità anche di comunicazione. Gabriele, che è veramente unica, e allora ci ha preso subito benissimo. Anzi, in realtà Fabio ce l'aveva presentato in qualche maniera, erano venuti insieme la prima volta, e il progetto, insomma, ha preso subito l'idea di fare una parte manualistica, un'altra parte ancora un piccolo romanzo di Fabio, però ci voleva un Cerbero a tre teste, non volevamo pensare a fare, perché anche il nome stesso, Cuore, classe, fegato, si è aggiunto, eccolo qua, Lorenzo Pedrini. Un applauso, perché Lorenzo è di Brescia, vive a Milano da 3 anni, se non sbaglio, no? un po' di più, da 4 anni vive a Milano. Noi ci siamo conosciuti tempo fa, aveva fatto una proposta, vabbè, insomma, comunque è originario di Brescia, vero? Sono. Dovevamo fare un libro insieme sul movimento Notav, ma in quel periodo ne uscivano tanti di libri. Poi il suo libro era ancora molto acerbo, dimenticavo, lui è il Secchione, quello che studia, è un boxer che studia perché gli piace studiare. Ci sono queste persone pazze che a 27-28 anni gli piace studiare, lui è proprio così, davvero. E però il suo primo libro, quello sulla tavola, era ancora troppo acerbo, era il linguaggio troppo universitario e come sapete Agenzia X fa libri di cultura popolare, sperano e tentano di farsi leggere anche dai ragazzi di periferia che magari sono interessati alla box e non tutto il resto che facciamo, insomma, e quindi ha fatto una parte saggistica, diciamo, lui con un bel linguaggio finalmente adatto alla cultura di strada che noi in qualche modo rappresentiamo, ha intervistato delle persone e diciamo che il libro è così concluso. Un applauso e do la parola a loro. Ciao. Ciao, ciao a tutte e tutti. Presenteremo il libro in ordine proprio di come lo troverete scritto. Quindi c'è la mia parte, la parte di narrativa. Quindi in sostanza la mia idea è quella di portare avanti una storia di questo personaggio che si chiama Stefano Caligari, detto il Callo, un giornalista che si barcamena dietro vicende, soprattutto tra l'altro in queste zone. Nel primo libro, che si chiama Box Populaire, c'era stato un delitto all'interno della palestra popolare Torricelli. È tutta finzione, non c'è stato nessun delitto, siamo tutti gente che ci vogliamo bene, non sono più per ora. E invece in questo libro sempre il Callo ha continuato a fare box nella palestra popolare e si trova alle prese con un'altra serie di delitti un po' strana. Delitti un po' strana perché in questo caso... Non muore nessuno, delitti sì, delitti senza morte, aggressioni, bravo, no spoiler però, no spoiler, magari qualcuno muore alla fine, un no spoiler, quindi aggressioni di vitrolage. Cos'è vitrolage in sostanza? È l'attacco con l'acido, ok, chiudiamo l'argomento qua, è una cosa un po' brutta, però è molto brutta a mio avviso, però mi piaceva fare un romanzo perché più che altro non ho mai letto un romanzo sull'attacco con l'acido, che è una cosa che è molto presente come aggressioni soprattutto in Medio Oriente, comunque anche nei paesi africani, soprattutto della parte dell'uomo che cerca di asservire o comunque rendere schiava la donna togliendole l'immagine, una cosa bruttissima, però succede anche, ci sono sempre più casi, sempre abbastanza isolati, ma ci sono dei casi anche in Italia, anche a Milano, e in cui con l'acido vuoi sfregiare le persone. Mi è piaciuto, nel senso, nel termine, cioè, mi sono affascinato un po' a questo aspetto, anche perché nella società odierna, che siamo tutti su un social o postiamo le nostre foto e comunque abbiamo anche solo la galleria del nostro cellulare, se non abbiamo i social, comunque abbiamo una galleria piena di nostri selfie, togliere l'immagine a una persona, togliere il volto a una persona è una cosa che è ancora più punitiva in qualche aspetto, anche solo di togliere la vita. È molto forte come ragionamento, però è una cosa che nel libro, ovviamente narrativa, non faccio un saggio, anche perché io faccio tutt'altro, vengo dall'economia e commercio, quindi non c'entra assolutamente niente con questa, però all'interno di una chiave di lettura narrativa volevo portare un po' la ribalta a questo aspetto che è sempre è molto diffuso, anche perché costa poco comprare dell'acido e sfregiare una persona, e invece poi le ripercussioni sulla vita di una persona sono devastanti. Vabbè, a parte questo aspetto più macabro, che comunque è come si su cosa un po' tratta il tema, c'è sempre volevo anche fare c'è l'amore, infatti, infatti c'è la storia d'amore, perché ci serve sempre la storia d'amore, ma soprattutto ho tirato in mezzo anche le sberle, Che perché io volevo dire, volevo innanzitutto fare una premessa, che sono molto felice di questa giornata, secondo me è una cosa che nelle nostre palestre popolari avevamo assolutamente necessità di avere dopo due anni in cui abbiamo provato in tutti i modi a chiuderci in casa, a non farci uscire. Sono felice che ci siano tantissime palestre che sono venute anche da fuori Milano, che hanno partecipato a questa giornata di Milano. E dopo parleremo anche dei prossimi eventi anche al di fuori di Milano, sempre palestre popolari che speriamo riprendiamo a incontrarci anche in tutta Italia. Detto questo, in questo anno e mezzo di pandemia globale comunque le cose non si sono fermate, ci sono state le nostre palestre popolari comunque hanno provato in a barcamenarsi. Ah, non si sente. A barcamenarsi e fare sport, cercare quello che facciamo noi, cioè attraverso lo sport, attraverso il sudore insieme, comunque trovare uno spazio per poter avere un benessere psicofisico. Oh, ragazzi, quando vado in una palestra, anche dopo questa giornata, io mi sento bene, ho sudato tutto quello che dovevo sudare, ho preso i pugni, che non pensavo di prendere stamattina, li ho presi, li ho anche dati, io mi sento bene, felice con me stesso. Poi esco dal ring, io con il mio sparring partner ho fatto già tutto, perché mi sono, più di picchiarmi in un ring, cosa potevo fare di più? Siamo amici come prima, è bellissima, è una cosa bellissima, la sport popolare, parlo anche perché vedo che c'è gente magari che viene da fuori non sa com'è lo sport popolare, ma è così, è fratellanza, amicizia, quello che volete, e quindi... Quindi volevo anche, scusate, tutta questa premessa per dire... L'amore, un attimo, ci sto arrivando, bisogna prenderla lontano. Guarda che l'amore è difficile. Ma Gabri, è facile parlare di vitro... E quindi ho tirato in mezzo anche le sberle, che è questa realtà di Milano. Sì, infatti. E il Callo si innamora di una sberla e c'è una relazione con questa sberla. Già nel primo racconto invece non era di Milano, era un'altra ragazza. Autobiografico? No, non c'è niente di autobiografico. Io la parte sentimentale ormai è chiusa, è finita, è tutto a posto. No, questo rimane qua, non esce da questa, da quella conchetta. Comunque grazie mille e passo la parola al saggista. Bravo Fabio. Ciao, sì, io sono di Brescia. Porto questo stigma per cui scusate in anticipo. Va bene, ok. No, okay. Sì, no, va bene, sono di Brescia, così. E, no, niente, io nel 2015 ho iniziato a fare il dottorato e all'inizio, siccome studiavo, mi occupavo all'epoca, mi interessava studiare i movimenti sociali, ho scoperto della realtà di sport popolare e ho iniziato a fare un po' di interviste alle varie realtà di Milano, polisportive, palestre, e mi ricordo che il 27 aprile del 2016 mi sono trovato con Gabri e Fabio, se non sbaglio, al parco Marina d'Italia, no? E niente, era il 27 aprile, me lo ricordo ancora. E niente, ho fatto un'intervista, cioè fino a quel momento la migliore è stata. Te l'ho fatta io, cioè. Sì, infatti. Cazzo sei, cosa vuoi? Cioè adesso dire cose come stanno, cioè non è che mi hai fatto. Tu sei un giornalista, noi giornalisti non li vogliamo. Vabbè, sì, è andato un po' così, però è stato simpatico, dai, no? E sono uscito un sacco di cose interessanti, ho detto, ah, figata, dai, adesso vado a allenarmi in Torricelli. E niente, così era il 27 aprile 2016, adesso è il 13 giugno 2021 e sono ancora qua. No, vabbè, tutto per dire che che poi ho fatto una ricerca di dottorato e ho scritto anche un libro sulla box popolare, una cosa un po' più accademica, e poi niente, poi Gabriele ha insistito parecchio dicendomi no, perché non facciamo questo progetto editoriale dove provi a raccontare le stesse cose in modo un po' più accessibile, insomma, senza troppa teoria e cose così. Interessante, si può dire. Più interessante, ecco. Comunque adesso non voglio fare pubblicità, però c'è anche il libro che ho fatto lì, per cui se qualcuno volesse prenderlo poi può fare un paragone. Però no, nel senso, vabbè, questo era un po' il preambolo, e per dire che se non ci fosse stato Gabri che ha insistito parecchio, visto che ero sempre in ritardo e che non volevo farlo, cioè non volevo farlo, insomma, ci mettevo un po'. E niente, ha insistito e quindi poi sono riuscito a raggiungere l'obiettivo. E niente, la mia parte sostanzialmente segue nel libro quella di Fabio, perché è stata pensata come sostanzialmente una sezione nella quale le persone, gli eventi, le dinamiche che Fabio prova a raccontare in maniera più così romanzata, in realtà hanno una, cioè sono legate alla realtà, vabbè, noi lo sappiamo, siamo qui, e quindi ho provato un po' a partire da questa cosa per cercare di raccontare un po' quali sono stati, fare una panoramica, diciamo, di quali sono stati i percorsi di pratica, ma anche di riflessione, che sono nati un po' all'interno del movimento della box popolare in questi ultimi 10 anni, un po' in tutta Italia. Però vabbè, mi sono concentrato nello specifico sulla realtà di Milano, e in ogni capitolo quindi c'è una tematica che viene approfondita. All'inizio si parla un po' dell'aggregazione nei quartieri, poi si parla dell'inclusione e dei modelli di coaching alternativo, di cui poi ci parlerà meglio Gabri. E poi niente, siccome Fabio aveva insistito parecchio sulle sberle, allora mi piaceva fare una parte, diciamo, più sulle riflessioni e le pratiche femministe che sono andate in questi anni, e c'è anche nella mia parte una sezione dedicata alle sberle, dove però sono loro a parlare, ecco, e quindi così. Una rappresentazione diversa rispetto a quella di Fabio. Ci si può divertire anche a guardare un po' le corrispondenze che ci sono e così i punti invece di distacco. E niente, questo è sostanzialmente il lavoro che ho fatto io, e ci sono tante testimonianze delle varie realtà e niente, da leggere, ecco. Non so se ci sono domande, poi ne possiamo parlare più nello specifico. E adesso passo la parola a Gabri. Grazie. Allora, buongiorno, ciao a tutti e a tutte. E allora, vi ringrazio prima di tutto della partecipazione in questa giornata, che era da tanto che non passavamo un momento collettivo insieme di questa qualità, di questa quantità. Ed è un po' un'emozione, secondo me, per tutti, cioè rivedersi, riguardarsi in faccia e passare un momento insieme. Mica bello spensierato, cioè, quindi evviva, cioè, prima di tutto questo ed ha funzionato. E poi ci sono le due cose importanti, secondo me, a parte il libro, sono una è l'evento che organizzeranno alla Dante di Nanni il 25, 26, 27, sempre di sport popolare, che è la festa della palestra. Chi vuole andare a partecipare, fanno un bel... Prego. Ma il 24 è venerdì. È giovedì. Ah, ok, infatti continuavo a guardare il telefono, perché mi avete detto il 24, però non mi spiegavo che come il giovedì è difficilissimo come giovedì. Però 24, 25 e 26. Ma il 26 ci sarà anche l'allenamento. Cazzo, cioè, 26, oh, ho ricevuto delle informazioni diverse. Però chi vuole, esatto, vivere un'altra situazione come questa, va a Torino, al Gabrio, e c'è un'altra situazione ottimale per vivere la socialità come piace a noi. E poi l'altra cosa che secondo per noi è molto importante, che oltre all'allenamento collettivo abbiamo organizzato questo perché per avere un benefit per i detenuti e le detenute, per i compagni che in questo momento non possono essere qua ad allenarsi con noi, che ci sarebbero stati. E se non possiamo fare niente per trasportarli fisicamente qua, cosa che vorremmo probabilmente, possiamo però contribuire con una cassa solidale che abbiamo preparato qua, quindi i soldi del libro andranno tutti nella cassa solidale per i nostri compagni che sono stati colpiti da repressione. Parlo plurale, però sento un affetto particolare per una persona e quindi non c'è bisogno che comprate il libro, cioè nel senso lasciate a noi, mettete i soldi e ve ne andate. Però se volete invece comprare il libro, sappiate che i soldi vanno lì e buono così. E per noi era importante perché, indipendentemente dal fatto che non siamo riusciti a fare aggregazione in questo anno e mezzo, e non siamo neanche riusciti a magari mettere in atto quelle dinamiche di solidali che ci caratterizzano per aiutare i nostri compagni e le nostre compagne, e forse questa è stata un'altra delle cose un po' più frustranti di quest'anno, un po' complicato, e ci tenevo a dire queste due cose qua. Invece per quanto riguarda il libro, il libro è un immaginario, cioè a volte dobbiamo pensare che la realtà non è una cosa lineare o una cosa in cui riusciamo a capirla bene, è creata da un'immagine, un immaginario di tante cose, e questo libro è forse questo, e per quello che ci volevano tanti autori, tante descrizioni, tanti autori e tante autrici, perché nella mia sezione, che è una sezione di manualistica, fondamentalmente è costruita in modo che tanti allenatori e allenatrici hanno dato il contributo per formare la mia parte di libro. Praticamente conoscevo tante persone, ho chiesto a molti e a molte di mandarmi degli allenamenti, delle teorie, per costruire una parte che fosse condivisa da tanti punti di vista. Quindi la parte di manualistica non l'ho fatta io perché ho delle conoscenze sempre limitate per quanto riguarda lo sport, ma ho attinto tante informazioni da tante persone che pensavo potessero dare un contributo. E a volte un'altra cosa che mi viene in mente è che spesso, almeno a livello di movimento, sentiamo che le generazioni prima non ci lasciano troppo oppure non ci lasciano troppo bene scritto quello che potrebbe essere un'immagine di un percorso. E questo libro non è che bisogna far così, Abbiamo raccolto tante informazioni, finalmente le abbiamo inserite in un libro, tutti noi possiamo elaborarle singolarmente e portarcelo a casa, magari nell'allenamento prendere spunto dalle cose che ci sono nel libro, rielaborarlo e costruirne magari un altro fra qualche anno. È un po' questo l'idea del libro, non è il libro che è un mattone, no? Cioè è carta e si brucia, però è carta ed è finisce, passa, muore, ma invece le nostre esperienze continuano a elaborarsi e a continuare. E quindi ci voleva appunto il Cerbero, che è il nostro amico protettore dell'inferno, perché alla fine speriamo di ritrovarci lì. No, perché mi viene in mente un detto dove cioè il paradiso, lo diceva Mark Twain, che ha viaggiato, bla bla bla, il paradiso lo preferisco per il clima, l'inferno per la compagnia, cioè, e non c'è ombra di dubbio, alla fine c'è il posto migliore dove ritrovarci, quindi noi siamo un Cerbero a tre teste che fa un po' da entrata a questo mondo infernale dello sport popolare, della box popolare, dell'inclusione, quello che ci piace a noi, e ci voleva un'esperienza diversa, collettiva, quindi ci voleva una parte emotiva di amore, perché alla fine a Fabio continua di amore, perché lui è la parte che di cuore, quello che racconta l'immaginario romantico, cioè quello che noi leggiamo il libro e dire Ah, ma che bello, potrebbe essere così, capito? Ah, mica vorrei tanto una storia così, un momento così, ed è bello, cioè... No. Dove andiamo a fare? La storia d'amore a caccia di fasci. Beh, esatto, esatto, poi esatto, c'è la storia d'amore e parallelamente andiamo a cacciare i fasci, cioè che, che lì ti dà un sollievo, dici, oh, non è solo amore, c'è un amore bidirezionale, cioè di diverse entità. Evviva! Poi abbiamo una parte invece più saggistica che, allora, a parte sembra pesante, ma non lo è, cioè nel sesto giro è stata revisionata decine di volte per renderla tipo bella leggera, accattivante e tutto il resto, che è la parte di Lorenzo, che è secondo me il cuore del libro, perché alla fine Lorenzo fa di lavoro e... non so come cosa puoi dire, l'osservatore, cioè un lavoro, dice, lui lo osserva e poi capisce e mette per iscritto le cose, però ci vuole anche uno così che vede cosa succede e lui ci sta ridando finalmente quello che lui ha osservato, perché gli sono stato addosso per questo libro, perché se tu vieni a fare il giornalista o il docente o il dottorato nella nostra palestra popolare o in Conchetta e vieni a scrivere un articolo su un qualcosa, allora mi veniva da dire ti meriti le mazzate, però un altro termine potrebbe essere sei fuori posto. Noi, cioè, possiamo essere accogliere qualcuno, ma nello stesso tempo ci deve anche ridare indietro quello per cui lui vive nel nostro posto. Quindi va bene, vieni, fai la tua ricerca, bla bla bla, robe così, però noi vogliamo che tu ci ridai quello che ci serve, quindi che ci fai un'analisi su cosa funziona l'inclusione, cosa funziona nei nostri spazi, cosa potrebbe funzionare meglio e come potremmo anche noi rielaborare le nostre interazioni personali. Grazie. E quello che diceva del coaching, che è fondamentalmente il termine un po' inglese di l'allenamento, l'allenatore, spesso immaginiamo sempre l'allenatore, l'allenatrice come una persona dall'alto che abbia una conoscenza e che quindi la trasmetta agli altri e crei una specie di setta, di gruppo cui va avanti, dove rimane al di fuori di questo gruppo. E noi ci siamo immaginati invece come, dato la nostra storia e di tante persone che sono qua, come questa cosa può essere smantellata e ricostruita in un ambito più di creazione collettiva, dove tutti noi acquisiamo delle conoscenze, ne abbiamo diverse, di diversi ambiti, e all'interno dell'allenamento le possiamo condividere e mettere insieme. E ci serviva a ragionare su questa cosa qua, per metterla scritta, per dare la possibilità ad altre palestre, ad altre realtà, poi di rielaborarla e magari di svilupparla. E Lorenzo alla fine ci ha dato questa possibilità, perché senza di lui forse non avremmo potuto mettere in moto alcuni ragionamenti critici che sono difficili da fare, perché c'è un capitolo che si chiama, qual è quello del padre che mi piaceva? Né padre né padrone, però avevamo, in realtà poi c'è un sottotitolo che è: avevamo bisogno di un padre da cui apprendere, da criticare e poi uccidere. È una metafora un po' forte, però è la metafora che per noi è l'allenatore, o comunque qualsiasi persona che si mette al di sopra di tutti noi. Quindi va bene, abbiamo avuto un'esperienza impopolare dove abbiamo avuto il bisogno di acquisire una conoscenza. L'abbiamo criticata, abbiamo visto quello che non funzionava e poi l'abbiamo uccisa, l'abbiamo esclusa per cercare di creare una collettività differente. Ed è possibile farlo, cioè noi abbiamo avuto questa possibilità e abbiamo cercato di mettere in atto questo processo, diciamo, di ragionamento critico. E penso che condividendolo con gli altri, magari altre realtà, altre palestre possono più facilmente mettere in atto questo ragionamento critico per evitare di andare nell'ottica dell'autorità, dove una persona si eleva sul gruppo, può avere del know-how, della conoscenza differente, la condivide, ma l'obiettivo deve essere la condivisione e l'acquisizione di questa conoscenza, altrimenti c'è qualcosa che non funziona in questo ricircolo. Cioè l'obiettivo non può essere il mantenimento di quella posizione. E questa cosa l'abbiamo analizzata e l'abbiamo uccisa e adesso pensiamo di volerla trasmettere agli altri, e questo è un po' il significato del libro. Aggiungendo delle parti di cui sono particolarmente orgoglioso della parte di manualistica, probabilmente sono tre parti: quella dove l'utilizzo di un certo tipo di linguaggio, dove si può utilizzare anche nella comunicazione con le persone all'interno dei propri spazi, se si vuole comunicare una cosa dove uno sta sbagliando, potrebbe fare una cosa diversa, utilizzare dei tipi di linguaggio autoriflessivi, senza che siano modelli impositivi. E su questo c'è un paragrafo del libro di cui sono molto contento, che è un dialogo tra un ipotetico allenatore e un ipotetico atleta, dove cercano tutte e due di mettere in atto un meccanismo di interazione bidirezionale che non sia solo un meccanismo verticistico. E sono contento perché il linguaggio è importante e quello che noi utilizziamo con gli altri alla fine ci caratterizza per mettere in atto determinati processi di ragionamento. L'altra parte è la parte che ha fatto Elisa su sport e mestruazioni, dove è un argomento dove non c'è tanta letteratura e penso che era importante parlarne in un libro per anche dare una possibilità a chi di genere maschile non capisce bene l'argomento e avere l'acquisizione di un sapere anche in quel caso, e quindi mettersi nell'ottica di capire meglio le altre persone per riuscire a continuare l'interazione e durante l'allenamento e durante, a volte può essere anche la propria vita quotidiana. E l'altra parte è la parte molto pratica che mi sono divertito perché è la parte di costruzione. Cioè io non so scrivere tanto bene, non capisco, cioè, penso di essere leggermente dislessico, anche disgrafico, cioè nel senso che se firmo un libro non si capisce un cazzo di quello che ho scritto, cioè, ma malissimo. Quindi per me fare un libro è stata una roba di boh, infatti un incubo. Infatti mi sono affiancato a Fabio, che è lo scrittore, a Lorenzo, che lo fa di lavoro, quindi mi andava bene. Però la parte di costruzione, cioè come io vado da un fabbro, c'è un modello di un ring, come lo costruisco? Gli porto il modello e lui me lo costruisce. 800 euro c'ho il ring. E quindi per una palestra che compra sto libro, dice ok, mi costa tot, gli porto il modellino che ho trovato sul libro Cuore, Classe e Fegato e me lo costruisce. Ci sono come utilizzare tutti i materiali low cost all'interno di una palestra, come strutturare una palestra. Cioè è il passaggio di conoscenze che noi abbiamo acquisito in questi 10 anni a tutti, è fruibile, cioè c'è un costo il libro perché l'abbiamo dovuto stampare, però c'è, cioè, nel senso, ha un sacco di informazioni a riguardo. E quindi era un po' questo, era, cioè, lanciare, dire buono, fate voi, ve lo scaglio in faccia, ve lo prendete in faccia, adesso fate voi, fatevi la vostra palestra popolare, riorganizzatevi, rielaborate quello che c'è scritto nel libro, fra 2 anni ci rivediamo, ne parliamo e voi lo fate voi il prossimo, cioè buono così. Il lascito intellettuale, mica, cioè la roba, sono morto, lo lascio, no, però questo è, no, infatti, però era un po' questo. Io ho capito questo in 10 anni, cerco di scriverlo, ve lo do e poi fate voi come volete, cioè nel senso, a me, cioè, evviva, cioè, nel senso, evviva, cioè, siamo qua, buono ragazzi, ok. L'ultima cosa, poi passo il microfono, e anche altri autori e autrici che mi hanno aiutato in questo libro non ci sono, e mi hanno aiutato un autore di Torino, della palestra solidale Neruda, della palestra antirazzista Neruda, Antonello, e mi ha aiutato un ragazzo di un'altra palestra popolare della Gogorigacci di Firenze, Giordano, e mi ha aiutato Marta anche, Canidio, che mi ha ha fatto una parte molto interessante sullo sport in genere, le interazioni anche in questo caso, e mi ha aiutato la palestra Torricelli, perché in realtà tanto del materiale che ho inserito nella mia parte è stato materiale che noi abbiamo acquisito, nel senso che abbiamo fatto delle giornate di formazione dove a turno segnavamo gli esercizi che ci venivano proposti da un maestro e abbiamo collettivamente segnato tutti gli esercizi, fatto le foto delle immagini e poi inserite nel libro. E quindi in realtà è la nostra palestra un po' che l'ha fatta quella parte lì. Anche Giuni di Bologna mi ha aiutato. Quindi volevo poi a fine ringraziare queste persone, che senza di loro io non avrei mai potuto farla questa parte qua. Grazie di avermi ascoltato, le mie robe. Cioè. Siccome l'intervento di Marta è particolarmente interessante, se ha voglia di parlare di cosa ha scritto, no, non hai voglia, peccato. No, però due parole sulla... Ok, una domanda. No, avevo una domanda, no, la parte direi che... Sì, no, io mi sono, diciamo, allineata un po' allo stile di quello che stava costruendo Gabriele. Quello che invece io avrei una domanda, che sta all'interno un po' anche di una riflessione generale. Credo che quello che si è costruito in Torricelli in termini di sperimentazione delle relazioni, di decostruzione dei ruoli di potere che creano comunque delle gerarchie, che sia il maestro nel caso delle palestre, ma riguardano qualsiasi dinamica di gruppi, di collettivi, proprio del modo di stare e fare le cose insieme. Quindi penso che questa sperimentazione abbia un valore proprio al di là dello sport, perché mette un po' in discussione e ci interroga sul fatto di sperimentare delle modalità nuove, circolari, che però non sono semplici. Non sono semplici. E quindi la mia domanda è: quali sono state le difficoltà? Quali sono le difficoltà poi nel proporre modalità alternative? Perché si assiste, non lo so, a chi magari ci tiene un po' al suo ruolo, perché le cose le sa, le ha imparate con fatica e in qualche modo ci tiene, e a chi magari tende anche a delegare. Quindi quali sono, secondo voi, diciamo, le difficoltà all'interno di questa sperimentazione? Tieni, Gabri. Beh, assolutamente, cioè, le difficoltà ci sono sempre, perché è proprio come ha detto Marta, cioè a volte ci mettiamo in ruoli noi stessi di delegazione, quindi diventiamo fruitori di un qualcosa o prendiamo gusto in quella piccola posizione di potere. E io dal mio punto di vista penso che debba essere poi la capacità di un gruppo di riconoscere quello che si crea in queste dinamiche, e forse anche parlarne in questo gruppo, creare dei momenti di incontri assembleari, oppure anche durante l'allenamento avere la possibilità di poter esprimere le proprie percezioni, che spesso sono corrette quello che succede. Per esempio mi viene in mente, appunto io non sono né un letterato né altro, però mi viene in mente molto pratico il fatto di costruire un allenamento dove tutti ne tengono una parte, dove si conta insieme gli esercizi, dove tutti si sentono liberi di tenere gli esercizi, dove magari io ho una conoscenza su un'altra attività fisica che però è inerente allo sport, e allora dico: ma avete voglia di fare stretching, oppure avete voglia di fare questo tipo di riscaldamento? E allora io che acquisisco, io stesso che magari ne so un po' più di pugilato, acquisisco delle informazioni nuove su un qualcosa che io non conosco, ed è molto bello questo rapporto di relazione. Non è facile però riconoscere che ci sono dei meccanismi di potere anche all'interno di una palestra e in ruoli stabiliti, e penso che se vogliamo decostruirli dobbiamo iniziare ad analizzare cosa succede durante le dinamiche di allenamento e se noi abbiamo un certo tipo di coscienza, perché viviamo questi spazi, questi posti, dobbiamo avere la libertà di poterla comunicare a chi magari ha un po' più di conoscenza sportiva su un determinato argomento, perché basterebbe che magari cambiasse la tipologia di linguaggio e di comunicazione con cui vuole propormi un qualcosa per darmi la libertà io stessa e di io stesso di elaborarla quella cosa. E per quello che prima dicevo del linguaggio, perché il linguaggio rappresenta alla fine la nostra espressione di voler quasi avere ragione su un argomento. E allora quando propongo qualcosa che magari penso di saperne un po' più degli altri o delle altre, posso benissimo utilizzare chi se la sente fa questo, o proviamo, invece di fai, dai, muoviti così, fai così, senza creare una frustrazione motoria, ma anche una frustrazione fisica nelle persone che ho vicino a me. Quindi in realtà il ruolo poi della, diciamo un po' dittatoriale del maestro, lo può assumere chiunque quando propone una cosa in cui si sente veramente che ne sa. E allora se ne sa di quell'argomento puoi evitare di utilizzare un determinato linguaggio, perché non sai se la persona che hai davanti riesce a elaborare in maniera corretta o a livello di percezione giusta quel tipo di comunicazione. E per questo che dicevo appunto che la parte sulla comunicazione, anche se solo accennata, ci tengo molto, perché è da lì che magari si può costruire una socialità differente nei rapporti in palestra, ma anche fuori. Se vuoi, se puoi fare una cosa, la fai. Non è che tutti devono fare. Se puoi e se vuoi. Se puoi, se vuoi girare il piede in quella maniera perché sei più comodo tirare un pugno, lo fai. Non devi girare in quella maniera. Io penso che appunto il devo o il fai, adesso non sono, ve l'ho detto, un gran letterato, però penso sia un imperativo. È già il termine un po', diciamo, letterario, come si dice, il termine letterario, no? Di italiano, imperativo, a noi non ci piace, quindi potremmo provare a iniziarne a... Impero, cioè nel senso che poi sì, esatto, cioè, non ci piace, e quindi io la immagino così, Marta. Grazie della domanda, però anche altre persone, se vogliono fare domande, sarebbe, ci piacerebbe mettere la nostra esperienza. Ma no, vabbè, io dico solo, aggiungo magari a quello che diceva Gabri, che punti critici. Punti critici, questo diciamo che non è che è qualcosa che è raggiunto totalmente, è in corso di, cioè ci si lavora su questo aspetto, e io volevo solo aggiungere che sicuramente c'è una difficoltà magari all'inizio, nel primo periodo, di chi si approccia alla realtà, perché inevitabilmente c'è c'è un modo di fare, di porsi, che riproduce un po' quello che si è sempre vissuto in ambienti sportivi, che possono essere dallo sport fatto a scuola o in altri contesti, per cui l'idea di avere qualcuno di riferimento che ha un po' questo ruolo di autorità, di leadership, c'è, e inevitabilmente può essere messa in discussione attraverso l'esperienza, ecco. Punti critici, diciamo che questo è uno dei percorsi che si è sviluppato in questi ultimi anni, non è che tutte poi le palestre lavorano in questa direzione o sono impostate in questo modo, e forse è un po', cioè comunque insomma, parliamo di un movimento che non è che è perfettamente omogeneo, diciamo, cioè ci sono poi delle differenze tra realtà e realtà, e sicuramente questo è uno dei punti su cui c'è un po' di critica, e su cui la discussione è sempre aperta, ecco, perché si è discusso parecchio rispetto alla socialità, l'azione nei quartieri, però ad esempio su questo aspetto del coaching è qualcosa che è emerso solamente negli ultimi anni e in maniera abbastanza forte all'interno della Torricelli. Vorrei specificare su questo che però è successo anche perché comunque c'è stato uno scambio in questi anni fra di noi, cioè nel senso io ok ho fatto la mia tesi di dottorato, però non è che io venivo e mi facevo i cazzi miei. Però nel senso c'è stato uno scambio e abbiamo ragionato anche sul coaching, su queste dinamiche, sul potere del linguaggio. Cioè, l'ho portato Gabri anche. La violenza simbolica. Anche una cos'è la violenza simbolica? Vabbè, non lo so neanch'io cos'è. Me l'hai insegnato tu, io lo so neanche io. Cosa fosse la violenza simbolica? Raccontaci, detto in modo molto semplice. Diciamo quel tipo di imposizione di un certo ordine di idee, di pensiero, di valori, che però avviene in maniera dolce, no? Docile, senza effettivamente. Faccio un esempio: l'imperativo, devi fare così perché è giusto fare così, perché così mi ha insegnato il mio maestro e te lo sto insegnando anch'io, è così che funziona. Insomma, non metti poi in discussione, no, questa informazione che ti arriva. Tipo, fai 10 flessioni, devono farle tutte per forza. Esatto, questo è un altro esempio. E, no, per cui sì, ad esempio un punto critico può essere questo. E ci tenevo solo a dire come ultimissima cosa, no, non è che mi sono incazzato, però nel senso io non è che non volevo scrivere sto libro, ero un po' in ritardo, dai. Siccome non ero dentro a quella forma mentis di, esatto, siccome sono duro che ci metto tanto a capire le cose, che sono bresciano, e siccome non siamo troppo permalosi, non siamo troppo, come dire, flessibili, allora ci è voluto un po' per farlo, per capire come farlo e per farlo bene, ecco. E poi comunque anche nella mia parte ci sono tante testimonianze, quindi mi piaceva l'idea di fare comunque un, cioè poi ovviamente io ho scelto gli argomenti, la linea guida, però ci sono tante voci, tante testimonianze e cioè, insomma l'idea di fare un libro un po' più di movimento legato a una scrittura collettiva che potesse essere un lascito per chi poi effettivamente è interessata a portare avanti le iniziative. E chiudo dicendo che nella mia parte ci sono dei bellissimi soprannomi che abbiamo dato alle persone per così un po' tutelare l'anonimato e un po' per rendere giustizia a questa idea dell'immaginario, no? Di costruire l'immaginario e quindi anche dare dei nomi che così fossero un po' evocativi rispetto al nostro mondo, ecco. E comunque li abbiamo decisi io, Gabriele e Marco anche. Non è solo, cioè così lo dico per togliermi da ogni responsabilità civile e penale. No vabbè, insomma, a parte i punti critici, a parte i punti critici, io invece volevo far emergere i punti di forza della box popolare. Si parla tanto di tentare di cercare in qualche modo di comunicare con le periferie, no? Lo fanno adesso con la trap gli squali del business musicale, visto che i dischi non si vendono più, si vende solo visualizzazione di YouTube, e quindi questi sciacalli vanno a parlare con le periferie soltanto per cavarci sui soldi, insomma. Per questioni ancora di sfruttamento, mentre c'è la box popolare, ha un approccio verso le periferie, verso i ragazzi della periferia, importante. Anche forse questo è il successo della box popolare, che ha dentro di sé proprio la tensione a uscire fuori dalle palestre e fare le cose in mezzo. mezzo alla strada, come la Torricelli ha dimostrato che l'ha fatto tantissimo, sta sempre fuori dalla strada, e lo dice questo libro in più occasioni, ha la possibilità di far capire quanto le palestre popolari vogliano stare in mezzo alla strada, anche perché il rapporto con la periferia è sempre un rapporto complicato. Arrivare a parlare con le periferie devi farlo in una maniera orizzontale, esattamente come si sperimenta dentro la palestra popolare nel rapporto tra atleta e maestro, e loro sono riusciti in qualche maniera, poi voi siete quasi tutti dentro a questo movimento, quindi forse non lo capite, però è un aspetto importante perché nello stesso tempo in cui le periferie sono state marginalizzate in qualche maniera, perché le si prendono soltanto dal punto di vista quando si può fare soldi, mentre invece è criminalizzata appena c'è un tentativo di rialzare la testa da parte delle periferie. Ecco, la box popolare dà la possibilità, uno, di sfogare la giusta repressione, la giusta depressione che uno, un ragazzo, una ragazza si vive in periferia, e giustamente in qualche maniera, io sapete sono un punk, c'è una canzone dei Clash che si chiama Rudy Can Feel, che dice, Joe Strummer dice, Rudy ha spaccato una macchina, ha rotto una vetrina, ha spaccato un deflettore perché era ubriaco, ha buttato una... ma c'ha sempre ragione lui, perché viene da una situazione familiare, sociale, di difficoltà, di sfruttamento, di depressione, quindi è giusto che in qualche maniera si faccia capire che quel tipo di aggressività è anche giusta buttarla fuori. Ecco, io credo che la box popolare riesca a trovare dei canali di comunicazione orizzontali veramente preziosi in questo periodo. Non a caso c'è un articolo, c'è una tua di Lorenzo, che nonostante che sei di Brescia, ma io di Brescia te l'ho detto quasi come un vanto, scusa, perché ricordo che lui è partecipe del collettivo della incredibile realtà radiofonica di movimento che è Radio Onda d'Urto, e quindi io l'avevo detto per questo, non perché sei un provinciale, assolutamente contrario, io l'avevo detto proprio perché anni e anni di militanza dentro Radio Onda d'Urto e nella libreria soprattutto, che ha tenuto durante i difficili giorni del festival di Radio Onda d'Urto tutti gli agosto, lì sotto il capannone a 60 gradi a vendere libri, c'è un articolo che parla di questa questione qui sulla strada e cosa è importante per la box popolare avere la capacità di includere anche le persone che normalmente non riescono. È anche un po' il tentativo, tra l'altro, di Fabio facendo una narrazione usando la tecnica del giallo poliziesco, dove il protagonista è un pugile seppur un po' in età avanzata, è un po' grasso, e comunque è fondamentale perché il rapporto diventa orizzontale. Insomma, su queste questioni io volevo, Fabio, innanzitutto vorrei che facessi qualcosa per la sì. Sì, sì, sì. Allora, volevo solo rispondere a una cosa a Marta, che poi mi ha fatto pensare un po' questa cosa. Volevo dire che alla fine, in tutto questo, dobbiamo ricordarci, ma anche per le periferie, si è collegato tutto, che noi facciamo box. Comunque andiamo sul ring, andiamo a prendere pugni, a tirare pugni, quello che facciamo. Cioè, non va bene, abbiamo il dottorato di ricerca e quant'altro, ma uno su tre abbiamo un dottorato di ricerca. Siamo i colletti di... Però quello che facciamo... è quando andiamo sul ring, come dice anche un pugile, quando bene, ho fatto la strategia, ho fatto di qua, ho fatto di là, ma quando sono sul ring è il mio culo, cioè è il mio culo, basta, non c'è nessun altro, sono io contro questo qui che è davanti, che non conosco, che mi tira i pugni. Quindi è importante, è ovviamente, visto che c'è un percorso all'interno della palestra popolare che se vuoi puoi arrivare fino a, beh, non è il goal, non è la meta, però comunque puoi arrivare anche a salire sul ring, quindi a trovarti davanti a un altro atleta che è più preparato di te, che devi pensare che è più preparato di te o preparato come te, comunque tu devi essere pronto e devi uscire dal ring sapendo che esci con le tue gambe, esci senza lividi. Questo è quello che anche è importante, cioè non è quello che la prima cosa che facciamo quando entri in una palestra popolare, però c'è anche questo aspetto. Quindi l'allenatore è anche responsabile dell'atleta che sta preparando, e quindi questa quindi è dimmi, cioè, però nel senso, cioè, l'allenatore è un rapporto che si crea, cioè nel senso dove, per esempio, c'è un ingaggio sempre bidirezionale da una persona che è da un'altra, e mi piacerebbe fare questa esperienza, certo. E tu te la senti di accompagnarmi a fare questa esperienza, allora uno di noi dice di sì e allora ci alleniamo un po' più intensamente, però rimane un rapporto che finisce all'interno di quello, perché io ho bisogno di arrivare, come tu dicevi, alla mia meta, certo. Cioè non diventa né fuori che continua, e questo rapporto un po' strano, e anche durante magari si può utilizzare un tipo di approccio differente. No, no, era giusto, giustissimo. E quindi beh, adesso mi hai fatto perdere il tema. Comunque, no, volevo dire appunto questo, e quindi anche rispetto alle periferie c'è anche, abbiamo atleti, ma non per forza delle periferie, ma alla ricerca anche di un riscatto. È un riscatto che con la box può avvenire, perché ti metti tu in gioco, entri tu sul ring davanti a una persona che non conosci e cerchi di fare il più bello spettacolo per questi tre round da due minuti, portando a casa la pelle e soprattutto facendo uno spettacolo, perché alla fine è bellissima la box, perché è uno spettacolo, sono due persone che ballano sul ring per sei minuti. Ed è una cosa che aiuta molto anche i ragazzi di 19-20 anni che salgono che vengono in palestra, vogliono andare sul ring, ci vanno sul ring se sono pronti. Per prepararci ci vuole disciplina, autodisciplina soprattutto. E quindi sì, uno dei limiti che forse è un finto limite è quello di dire cavolo, però sto andando a fare box, sto andando a prendere pugni. Però non è così, perché alla fine se sei pronto e vuoi fare un percorso e ti fidi delle persone con cui fai box all'interno della palestra, arrivi a quella meta. L'altro discorso un po' più personale, che si può anche affrontare più personale, più della Torricelli, che si può affrontare in assemblea, che è una cosa che abbiamo già affrontato e che si riaffronterà, il fatto che da quando c'è un bellissimo corso di autodifesa femminista il martedì, molto seguito, aperto alle compagne, ci sono molte compagne vanno a questo allenamento e molto spesso poi perdono un po' di interesse nell'allenamento invece di box, quello tradizionale. A volte, sì, così mi ha fatto, così. Beh, sì, è quello che sento io. E quindi questo è un limite che devo capire qual è, perché non c'è niente di parlato, però è vero che ci sono alcune compagne che probabilmente si trovano proprio a loro agio in un contesto diverso da quello che non è nella palestra canonica, perché? Punto di domanda? Domanda aperta. Al momento delle domande facciamo, dai. Fatto io. Sì, No, ma oltre a questa, se chi vuole fare le domande, sì, non ci sarà solo una domanda, certo. Cioè, io però vi devo congedare, scusate, perché cioè, ho... sì, dopo la domanda me ne vado. Devo andare. Ma allora lasciamo tipo la domanda sospesa, tipo, cioè, tipo sospeso, il caffè sospeso, la domanda sospesa. Però Fabio va via, grande Fabio, un applauso. Grazie. Grandi ragioni. Deve accudire 18 figli, cioè nel senso, quando parliamo di proletariato, Fabio è l'esempio del proletariato, quindi cioè, nel senso, se se ne va è perché ha delle ragioni di gestione molto importanti. Grazie Fabio! C'hai 18 figli, vai Fabio, grande! Cioè, vai sereno. No, magari se c'è qualche domanda... Qualche domanda adesso rimugina per 2 ore, dato che gli ho detto così. Va bene, no, qualche domanda sul libro. Vai Sara. Molto interessante, cioè, come domanda. No, non lo so, cioè, no, non lo so, mi viene da pensare che comunque chi decide di salire sul ring è perché si deve sentire pronto nel suo percorso all'interno del gruppo, e quindi ha deciso di prendere prima di tutto una autoconsapevolezza, che vuole allenarsi magari un po' più intensamente perché ha un obiettivo. Quindi è inutile che vada in modalità di delegazione, come tu mi devi portare un incontro, far combattere, ma io stesso inizio anche a girare anche altri posti, altre palestre, per acquisire conoscenza. Cioè, secondo me quello è una buona modalità per acquisire tranquillità. E poi lo senti, cioè nel senso che... è difficile come da descrivere, però lo percepisci quando una persona è pronta, perché ha quel tipo di confidenza, quel tipo di sguardo, che quando è su quel quadrato lì ci sta, ed è come se si allenasse normalmente. E penso che sia più un modello percettivo, ma anche del gruppo che è attorno, che quando la vede riconosce e dice: ah caspita, ci sei pronta. E tu stessa, credo, tu stessa acquisisci quel riscontro dalle persone attorno a te. Cioè, non penso neanche quasi che sia una persona che con la sua lungimiranza ti dica: ah, sei pronta, sei pronto, ci sei. Ma è più una collettività che quasi decide per te, dice: guarda, che mi sembra che ci sei. La mia percezione di esperienza si traduce in questo modo. Però non so se tu sarai un'altra percezione anche su di te o... In quel momento era l'inizio di un percorso, non ci arriva Dio, per me che si può bestemmiare, era l'inizio, madonna, di un percorso per cui ero io l'allenatrice, nel senso che eravamo proprio all'inizio, ero la persona che faceva da più tempo pugilato e ho avuto qualche difficoltà e qualche dubbio a... capire se la mia atleta era pronta o no. Lei era prontissima, si sentiva assolutamente prontissima. Io magari per le mie manie di perfezionismo, cose così, avrei aspettato ancora un po'. E quindi mi chiedo, appunto, però è andata benissimo, orgogliosissima di Virgin, che non c'è però. E, E anche all'angolo, vabbè, no, all'angolo mi sono piaciuta, quindi non ho niente da dire. Però ero da sola, quindi in un... Adesso non c'è più ricapitato di salire sul ring, perché tra pandemia e tutto, e quindi mi chiedevo invece se voi avete già esperienza di questo allenamento condiviso, di questa figura dell'allenatore-allenatrice che viene ricostruita, poi nel momento in cui uno dice ok, ci siamo, per affinare la tecnica c'è una persona sola che lo segue, piuttosto che continua il gruppo, e poi l'ultimo sprint è proprio una roba tecnica, e poi all'angolo chi ci sta? Ok, no, io non ho mai combattuto sul ring, però mi alleno da un po' di tempo, cioè, e a me viene da dire, nel momento in cui una persona vuole combattere, è una persona che magari si sta già allenando, c'è già un rapporto con le altre persone della palestra, e quindi non esce fuori dal nulla. In più, nel momento in cui decidi di combattere, si struttura tutto un certo tipo di allenamento diverso e un rapporto diverso anche con magari quella che può essere una figura di riferimento o più di una figura di riferimento. E quindi, secondo me, nel momento in cui decidi, ok, sono pronto, sono pronta, lo fai sulla base di, cioè, di quella che è un rapporto, no? È la stessa cosa nel momento in cui sei sul ring, cioè la persona che è all'angolo è la persona con cui hai fatto un percorso. Non è, cioè, secondo me non va vista come un tu, allenatore, allenatrice, hai deciso che io sono pronto, ma insieme abbiamo parlato di questa cosa, ci siamo allenati insieme, abbiamo visto che ci sto dentro, e quindi poi non è perché tu ne sai di più che, cioè anche, però non è perché tu ne sai di più che ti voglio all'angolo, ma perché abbiamo fatto un percorso insieme e lo voglio concludere insieme. Secondo me si fa insieme, quella è la questione. Poi non so, magari è una cagata, però. No, forse aggiungo che nel nostro caso è l'angolo di fa porre la voce alta, tanto okay. Che nel nostro caso l'angolo di dirci era. Non è vero. Okay. Merda, ho sbagliato tutto. Vabbè, nel nostro caso l'angolo era piuttosto condiviso. Nel senso che il percorso per andare poi sul ring è stato fatto assieme, e banalmente è stata solo una cosa tecnica di dire quella è portavoce, solo per non sentire sette voci all'angolo, che poi è una cosa tecnicamente difficile da affrontare, però era un problema tecnico, il percorso è stato condiviso. That's it. Sì, io mi permetto di aggiungere, visto che pluralizziamo, no, che c'è un po' l'idea della squadra, cioè alla fine si pensa sempre a questi sport come sport individuali, invece se si decostruiscono certi meccanismi si crea proprio la squadra, per cui sul ring ci arrivi insieme alle persone con cui ti alleni. Poi il fatto di avere delle figure di riferimento anche secondo me sta molto nel rapporto anche di fiducia che si può creare, che va anche al di là della palestra. Io non ho niente da aggiungere, cioè, avete secondo me già elaborato collettivamente il tipo di risposta. Poi parlate con me che c'è tipo, cioè io all'angolo a me non mi piace stare, anche se magari alcune persone nel corso degli anni hanno come intensificato l'allenamento un po' più con me, perché avevo più conoscenze che io ho condiviso con loro, e loro a loro volta condividono con altri altre. Non mi piace perché alla fine, cioè, mi sento di avere un po' il sangue caldo, e quindi se non sto all'angolo posso stare tra la folla e gridare, cioè sbragarmi, mentre se sto all'angolo devo darmi un contegno, quindi cioè, mi viene molto meglio stare tra la folla e sbragare, bla bla, fare la serata. E tanto poi il percorso, come diceva Gio, l'abbiamo già condiviso insieme, quella è una roba in più, cioè se arrivi lì è perché sei pronto, sei pronta e bla bla bla, è il coronamento di un bellissimo percorso insieme, è buono. E come diceva Gio, alla fine se uno ha una passione e soprattutto ha dei meccanismi critici, e poi riconosce magari delle figure da cui può attingere più conoscenza, perché a sua volta dovrebbe essere il meccanismo per metterla a disposizione di altri o di altre, e quindi all'interno di contesti sportivi acquisisco più conoscenza da più persone che hanno caratteristiche differenti. E la domanda sarebbe perché lo faccio, è una domanda difficile, però penso che passare del tempo di qualità alta insieme, bello, e con cui dopo si può condividere anche altro, oltre lo sport, sia forse la risposta migliore, cioè non è che c'è un senso, cioè dobbiamo star bene e vai, cioè nel senso. Altre domande? Tanto questa sia autorisposta, tipo. Vi viene in mente qualcos'altro? Se no concludo, cioè. Vai, grande. Perché, vabbè, ho fatto, sto raccontando la mia vita, però nel senso, negli sport, quelli della federazione, per intenderci, ma in generale viene insegnato uno sport come se fosse quello, cioè, non so, per palleggiare la palla lo puoi fare solo in un modo, per stare nella posizione in campo è solo quello il modo, e quindi questo ti porta per forza di cose a essere super autoritario. E quindi la mia curiosità, quando, vabbè, che un po' mi avete risposto, però volevo approfondirla insieme, era quando vi sentivo parlare, quindi questo presuppone, questa cercare di combattere l'autoritarismo, no? Presuppone che non c'è un modo di imparare le cose, cioè non c'è quindi un modo per tirare il pugno, non c'è un modo per schivare, cioè questo è forte, cioè, nel senso, mi sono fatta la domanda da sola. Un pochettino sì, ti sei fatta la domanda da sola e la risposta sì, è proprio così, cioè in qualsiasi palestra che tu vai c'è una persona che ti spiega in maniera differente come dovresti fare. E quindi hanno tutti ragione, hanno. Allora, se hanno tutti ragione, io inizio a pensare che non ci sia una ragione univoca come si devono fare le cose, ma magari parte più dal presupposto di come ti puoi sentire più comodo a fare una cosa. Allora, costruiamo una cosa che sia più adatta a te, alle tue caratteristiche, rispetto a un qualcosa che deve dipendere dalle mie volontà. E sì, cioè, è veramente molto semplice. Poi nel pugilato, come sport, ma in tantissimi sport singoli o di combattimento, sembra quasi che la persona abbia la conoscenza migliore di tutti gli altri di quella situazione. Poi vai in un altro contesto e un'altra persona ti spiega le cose in maniera completamente diversa. E allora dici, ma cosa è successo? Hanno tutti ragione oppure hanno tutti torto? Cioè, nel senso, e allora se io devo immaginare, penso un po', hanno tutti torto, e allora noi possiamo rielaborare quella cosa lì, capire come mai e cercare un po' di modificarla. E poi io ti porto il mio vissuto, ma consapevolmente ti dico, io ti sto portando il mio vissuto, che secondo me un pugno dovrebbe tirarsi così. Però se tu ti senti più comodo a tirarlo così ed è efficace, ma va bene, cioè nel senso, cioè, è ok. Probabilmente anche tu ti senti più a tuo agio se io faccio così. Lori, volevi... No, io sì, ma infatti è forse anche per questo che c'è tipo sempre una grossa rivalità, no, fra maestri delle discipline da combattimento, ognuno ha la sua scuola, i suoi eredi, no? Che sono coloro che si sono allenati con lui e portano avanti questa cosa. E, boh, sì, non c'è una soluzione, però ad esempio, secondo me, visto che ragioniamo sul vissuto, io volevo aggiungere che per esempio nella nostra realtà una cosa interessante è che ad esempio il percorso che si fa per poi arrivare a combattere è un modo che si utilizza per in qualche misura, diciamo così, coinvolgere maggiormente le persone dentro a questo modello così di allenamento, di coaching, come dicevamo prima, più orizzontale e condiviso, ecco. E anche perché, per esempio, nel nostro caso, il fatto di sviluppare l'interesse per quel tipo di attività più agonistica viene molto dal tipo di interazioni che abbiamo, no? Anche nello spogliatoio, cioè dove diciamo, ah sì, sei migliorato, sei migliorata, e stiamo, cioè, potresti pensare di combattere, cioè è qualcosa che tutto è in qualche modo collettivizzato, ecco. E per esempio la cosa interessante che ho notato nella nostra piccola palestra è che, cioè, negli ultimi anni, visto che io sono uno che nella vita osservo, no? No, la cosa bella è che secondo me negli ultimi, vabbè, c'è stato il Covid di mezzo, però negli ultimi 2 anni cioè si vedono anche tante persone che magari si allenano di più, che si preparano a combattere, cioè c'è anche una maggiore varietà, no, del modo in cui ognuno si approccia all'attività, allo stile che si ha, cioè non è più quello, come dire, Torricelli 1.0 di qualche anno fa, invece che era molto impostato sugli insegnamenti, che erano quelli specifici di chi comunque ha messo in piedi il corso. E boh, basta. Ah, poi vabbè, sì, sull'aggregazione nei quartieri, diceva Marco prima una cosa interessante, secondo me anche, cioè, sarebbe da riflettere un po', da riconoscere questo aspetto, un po' da rifletterci su come alla fine i collettivi di box popolare sono state una delle cose migliori che sono state fatte a livello di movimento negli ultimi anni, perché l'aggregazione che si è creata, la socialità nei quartieri e avvicinare persone nuove, cioè è riuscito a farlo solamente la box popolare, ecco. Solamente, no, vabbè, così lo sport popolare, sì. La box, secondo me, avendo la possibilità di organizzare questi eventi in cui si combatte, quindi c'è un obiettivo chiaro, si può fare un percorso, da modo di, appunto, lavorare bene sull'aggregazione, ecco. Adesso c'è stato il Covid, sono più di 2 anni, sono un anno e mezzo che non si fanno eventi, vediamo se si riparte, ecco. Domande? Anche sì, anche solo considerazioni, non per forza domande. Ma io volevo fare una considerazione più che altro, ma anche un ringraziamento, nel senso che il libro non l'ho neanche ancora aperto e ho preferito prima ascoltarvi e sono molto contenta che l'abbiate fatto, poi magari lo apro, non mi piace, no scherzo, no, sono contenta perché secondo me è importante che delle esperienze che durano anche da anni, come è la palestra in Torricelli, alla quale io già decenni fa partecipai al primo corso di autodifesa femminista e dopo 20 anni siamo ancora dentro alla palestra con altre compagne di Milano. E è importante, forse lo dicevi tu all'inizio, un po' un passaggio anche di esperienze, anche scritte, nel senso che lo scritto è vero che lo scritto il libro lo butti, ma è anche leggendolo ti permette di riflettere, di fare quello che stiamo facendo noi oggi, anche una specie di passaggio del testimone tutto in elaborazione. E siccome io ho percepito, comunque percepisco non solo nell'ambito dello sport popolare, che ci sono tanti buchi, tanti gap generazionali, questo sforzo che voi avete fatto a me piace molto e spero che appunto il libro sia anche uno strumento per far conoscere e rimanere un'esperienza che è ancora viva, come lo sono altre che sono state raccontate qua. E quindi già questo per me è importante, lo volevo sottolineare, ecco, perché e spero che siano tanti strumenti come questi che si moltiplichino. E rispetto alla questione degli allenamenti, appunto, io pratico l'autodifesa femminista e sono qua alla Torricelli con altre compagne che hanno anche parlato prima, e posso dire che mi fa piacere che si affrontino sia scritto che in una discussione questioni come l'orizzontalità, le questioni di genere e come si affronta un allenamento, il ruolo dell'allenatore e dell'allenatrice, perché se ne parla ma negli ultimi anni, perché prima queste discussioni non si ponevano neanche, ognuna battagliava un po' per sé quasi, e con l'autodifesa invece siamo sempre partite da noi e abbiamo messo i temi che stanno uscendo oggi, sono sempre stati caldi e anzi la base dei nostri allenamenti. E quindi niente, volevo anche dire che assumersi la responsabilità, cioè è anche una questione di responsabilità l'orizzontalità, perché è vero che bisogna uscire da un ruolo. Io sono tanti anni per esempio che trasmetto questa pratica, ma l'ho anche ricevuta e la ricevo ancora adesso, però ci sono due facce della stessa medaglia, cioè anche chi è alle prime armi e deve assumersi la responsabilità di apprendere e far crescere anche chi in qualche modo sembra già cresciuta e non lo è. Cioè è una responsabilità reciproca, perché per adesso abbiamo sempre parlato del ruolo di chi diciamo insegna, magari ha un po' più di esperienza ed è giusto che si metta in discussione, che si metta da parte, che il suo ruolo nasca e muoia continuamente, ma anche chi riceve e impara deve assumersi la responsabilità di crescere sia per se stessa ma anche per la collettività, per poi raggiungere quello che diceva Gio prima, decidiamo in squadra, anche Marta diceva tutte insieme, allora poi arrivo a decidere, a prendere delle decisioni per il singolo, per il collettivo, però vuol dire che allora tutte si assumono una responsabilità anche di conoscenza, perché la conoscenza è un potere che hai nelle mani e quindi va un po', come dire, gestito insieme. Basta. Buono. C'è qua... Grazie, Silvia. Sì. No, infatti, grazie per questa cosa e ci tenevo solo ad aggiungere che abbiamo fatto proprio questo ragionamento anche noi quando abbiamo concepito il libro, cioè l'idea di appunto partire da noi e provare a metterci in gioco, no? Nel senso, noi abbiamo fatto questo percorso, abbiamo fatto queste riflessioni, non sono delle soluzioni, sono qualcosa che è stato elaborato e proviamo a socializzarlo, no? E quindi in qualche modo cioè la cosa che sarebbe bella è potersi prestare anche alla critica eventualmente, che una persona legge il libro e dice ma che cazzo è, cioè, lo butto appunto, però cioè, boh, abbiamo voluto provare a condividere quello che abbiamo fatto e poi sarebbe bello eventualmente che se ne potesse riparlare, ecco. Però anche chi in effetti non ha grossa esperienza può aver modo di accedere a dei contenuti che in qualche modo possono essere d'impatto, diciamo, dai, ecco. Poi non lo so, magari mi sono fatto un viaggio io e basta. Sì. Sì, siete sicuri? Sì. No, io volevo un po', è stato prima lanciata la cosa dell'amore, poi è andata così, quindi volevo portare un po' di amore e di conflitto, perché sennò sembra che siamo la Feltrinelli, va tutto bene, una presentazione così lineare. Ok, va bene, non mi sentite? Adesso sì? Però più di così non so cosa fare. Ok, va bene. Anche secondo me è andata così. No, mi spiace che è andato via Fabio. Parlo in realtà un po' al singolare, un po' al plurale, perché parlo per la palestra popolare Le Sberle e quindi chiedo alle mie compagne di aggiungere o tagliare quello che dico. Siamo molto onorate di essere così presenti in tutte le parti del libro, forse un po' troppo etero nella prima parte ecco, non avevamo così bisogno di essere salvate, però non voglio svelare. È andato via, è andata così, però è andata così. Però lo mettiamo così per chi lo legge poi. Rispetto all'esso del libro, sono stranamente d'accordo con Gabriele rispetto al tramandare un certo tipo di conoscenza e sapere nelle varie generazioni di movimenti, che è una cosa che manca spesso, e credo che uno dei meriti di questo libro sia stato dare voce a un sapere costruito senza sistematizzarlo, per cui senza renderlo plastico e fisso, ma lasciarlo aperto, però allo stesso tempo dare a qualcuno il modo e a qualcuna il modo di continuare a partire da quelle cose lì. E riconosco anche, come si diceva prima, a Lorenzo il merito di aver restituito o di provare a restituire, perché poi il libro è una forma di restituzione, credo che avvenga molto di più in situazioni come queste e in altre che spero si creeranno. Queste le cose positive, le cose che invece spero avverranno nel terzo libro o che spero si possano cambiare un po' di più è il fatto che comunque le questioni di genere sembrano rimanere un po' una quota rosa, nel senso che sia negli allenamenti sia nell'analisi che ha fatto Lorenzo le questioni di genere, anche nelle interviste, emergono, cioè quando ha intervistato noi come palestra popolare femminista, noi non siamo solo una palestra popolare femminista, nel senso che il femminismo è un metodo, ma non parliamo solo di questioni di genere. Quello che il passo in più che ci aspettiamo e che vogliamo è quello di, e nelle interviste agli allenatori, tutti gli allenatori parlano della box popolare, le donne parlano di questioni di genere, quindi è tipo un appendice. Il passo in più è mettere delle bombe per far scattare queste teorie, cioè queste categorie di genere. Non c'è una quota, non c'è smettere di pensare in termini di parità, smettere di pensare in termini di antisessismo, ma cambiare alla radice le cose. Quindi mischiare completamente le carte, non aggiungere una cosa in più, non vedere le questioni di genere e femminismo come se fossero una questione che in qualche modo, di cui in qualche modo dobbiamo tenere conto, perché ormai è così, ma che deve cambiare un po' il ragionamento alla base. Ma Elisa, parlavi di Lorenzo, no, non devo rispondere io, no? Parlavo di bombe. Ah, ok, va bene, non devo mica, cioè, io non voglio rispondere su niente. Ma beh, non c'è bisogno di una risposta, quindi c'è qualche altra domanda? Cioè, è un'analisi, cioè è un'analisi, no, vuoi rispondere? No, vabbè, io premetto che mi alleno anche alle sberle, per cui queste riflessioni le condivido, mi interessano, per essere così simpatico o politically correct, cioè mi interessano veramente. E infatti il mio tentativo nell'intervista, perché poi ogni capitolo ha un focus su persone, singoli o collettivi, c'è il focus sulle sberle, e l'idea era quella, e forse c'è in un paio di passaggi, di far capire come la palestra popolare femminista non è la palestra popolare femminile, è un approccio, un metodo anche legato al coaching, allo stare insieme e al rapporto con i corpi, cioè nel senso, io ho provato a metterla in questi termini, ecco. Poi magari non ci sono riuscito, non è uscita bene questa cosa, e niente, poi cioè ogni capitolo io pensavo di focalizzarlo su uno dei percorsi che c'è stato all'interno delle nostre palestre, sia come pratica che come riflessione. Poi sarebbe bello poter dare il libro a chi è interessato, leggerlo prima e poi magari intavolare dei momenti non di presentazione ma di discussione a partire dalle letture, ecco. Quindi insomma è l'idea, no, del libro, che prova a mettersi in gioco, ecco. Boh, basta, dico solo questo. Avete qualche altra domanda, domande? Parlo. Ho visto una mano alzata, era per una birra. Ah, ok, minchia. Era per una birra. No, avete delle domande, delle curiosità? Penso potremmo aver esaurito. Minchia, abbiamo esaurito i termini. No, la presentazione, secondo me. Grandi! Oh, ragazzi, però... Grandi! Prendiamo questi applausi in piedi, però vi ricordiamo che qui c'è il libro, e del libro anche chi se ne frega, cioè, e no, beh, cioè, va bene, abbiamo asciugato un'ora sul libro, capito, che vi capisco se non volete più comprarlo, avete tutte le ragioni nella faccia della terra, però c'è il benefit, quindi potete anche evitare di comprare il libro, venite qua, noi non accettiamo monete, accettiamo banco, no, contanti, quindi se volete mettere 5-10 euro nel benefit, questi soldi vanno per i nostri compagni colpiti dalla repressione, quindi questa è la cosa importante, ricordatevelo, di venire qua e aiutarci, e vi ringrazio a tutti e a tutte per l'attenzione che giustamente si è persa. E via le birrette. Grandi, ragazzi. Dai, ragazze.